Mare, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Le 12.15, ancora buongiorno e buona domenica da Giampaolo Mauro e Maria Spezia. La cronaca nera in primo piano in questa edizione, 3 morti in altrettanti incidenti stradali. In poche ore sentiremo le ricostruzioni e alcune testimonianze. Poi il turismo con le prove d'estate a Lignano, dove c'è già il pienone per la Pentecoste con numerosi arrivi dall'Austria, ma non solo. L'ultima giornata di Estoria a Gorizia e a Trieste, ricordo della naia dei fanti del battaglione San Giusto, che è l'inizio di una nuova storia. A quello del campus scolastico che sorgerà sull'area della caserma di Via Rossetti. Parleremo poi di sport estremi, la rassegna è in corso a Sacile e di un premio all'arbitro friulano Zufferli. 3 vittime della strada in poche ore. Ieri in Friuli, dinamica sconcertante per il motociclista finito giù da un ponte mentre percorreva la provinciale che scende da Passo Pramollo, e poi un frontale a Bertiolo e uno schianto in moto a Udine. Qui a perdere la vita è stato un 18enne. Sentiamo. Abitava a poche centinaia di metri e stava rincasando con degli amici che lo seguivano in macchina. Tutti sotto shock dopo aver visto il loro amico, Andrea Degano Gremese, 18 anni, perdere la vita. Alcuni sono ritornati sul luogo della tragedia questa mattina, in via Pradamano, nei pressi del sottopasso ferroviario, sbalzato in avanti per 27 metri dalla moto dopo un sorpasso a 3 auto. Il mezzo a 2 ruote era praticamente intatto, riferiscono testimoni. Quando è rientrato sulla corsia giusta, in quel momento ha perso il controllo della moto, proprio davanti al numero 75 dove hanno fatto i lavori anche per la fibra, può essere anche la strada che purtroppo non è in ottime condizioni. E poi dalla velocità e più la strada piena di buche, la moto purtroppo non ha retto la strada. In questo sottopasso ci sono spesso incidenti? Diciamo di no, però ultimamente è molto peggiorata perché la viabilità, l'asfalto è veramente indescrivibile. I sanitari, giunti in pochi minuti dopo le 23, hanno constatato il decesso. Intervenuta la polizia locale e i vigili del fuoco, acquisite le immagini delle telecamere private. Pochi minuti dopo, a Bertiolo, un frontale ha ucciso Enrico Degano, 44enne, spilimberghese. L'impatto l'ha sbalzato fuori dalla vettura. Viaggiava con la figlia di 10 anni, seduta sul sedile posteriore con le cinture allacciate. Quest'ultima ha riportato lievi traumi, prognosi di pochi giorni anche per la conducente dell'altra vettura, una 22enne di Codroipo. Intervenuti i pompieri volontari della stazione locale e i carabinieri. 100 metri più in là, i fiori secchi di un altro mortale, avvenuto in passato. Qualche ora prima a Pontebba, un motociclista 58enne, Nereo Medves, goriziano vigile urbano a Cividale, si è schiantato sulla spalletta del ponte sul rio Bombaso, scendendo da Passo Pramollo. Sbalzato dall'impatto, è caduto per 30 metri sul greto sottostante. Decesso constatato dal medico, verricellato con l'elisoccorso. La salma è stata recuperata dalle squadre di terra del soccorso alpino. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Parliamo adesso di un altro episodio di cronaca giudiziaria. Ieri a Udine, come dicevamo, è stato convalidato l'arresto di un 45enne italiano che venerdì ha percosso in modo grave la compagna, 46enne, ora ricoverata in ospedale in prognosi riservata nel reparto di terapia semi-intensiva per un grave trauma cranico. La donna era stata trovata incosciente dai carabinieri accorsi sul posto in seguito alla segnalazione della madre di lei, residente in prossimità della coppia, allarmata dal rumore proveniente dall'appartamento dei due. L'uomo era ai domiciliari per maltrattamenti a danno della precedente compagna. Il suo legale, Luciano Rizzo, ha dichiarato che il suo assistito si è avvalso della facoltà di non rispondere in attesa di conoscere con più precisione le imputazioni. Giornata con caldo estivo, acqua del mare con temperatura sopra i 21 gradi e a Lignano le prove generali di un'intera stagione, alberghi tutti aperti, già arrivate le avanguardie dei turisti che animeranno la località nei prossimi giorni. Finalmente il bel tempo qui a Lignano è arrivato nel momento più opportuno, cioè quello del fine settimana dell'ascensione per gli austriaci del 2 giugno. Per gli italiani nei prossimi giorni altri appuntamenti importanti con la Pentecoste, ancora grande richiamo soprattutto per gli austriaci, e poi il concerto di Cesare Cremonini l'8 di giugno. Siamo con il nuovo presidente di Lisagest, quindi l'azienda pubblico-privata che gestisce una grande concessione sulla spiaggia lignanese. Il nuovo presidente è Roberto Falcone, gli chiediamo come stanno andando questi suoi primi giorni di operatività. Direi bene, bene grazie al sole, bene grazie ai turisti, ma bene soprattutto grazie alle maestranze della Lizagest che si stanno dando da fare, sperando nel migliore dei modi, e di cui sono veramente orgoglioso, perché ho visto impegno, ho visto sorriso e riescono a dare al turista quello che si aspetta, ovvero sia tranquillità. È aperta una gara per le concessioni balneari, è possibile che i tempi si allunghino per via dei ricorsi che di fatto sono stati già preannunciati e voi comunque dovete garantire un servizio anche in questa incertezza, dovete comunque garantire un minimo di investimenti. Il nostro dovere è dare servizio, quindi indipendentemente da come andranno le gare o gli eventuali ricorsi, vogliamo assolutamente fare quello per cui esistiamo, ovvero sia dare servizio al turista e servizio a tutti gli operatori che hanno bisogno di noi, perché la spiaggia è il motivo per cui la gente principalmente viene a Lignano. Lignano, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Uno sguardo alla situazione del tempo, abbiamo cielo sereno sul Friuli Venezia Giulia, queste temperature delle 11, a Trieste 23 gradi e 5 decimi, a Udine 26, a Gorizia 27, a Pordenone 24 e mezzo, nell'area montana a Tolmezzo 24 e 5 decimi, a Tarvisio 23, a Sappada 20 gradi, a Forni di Sopra 23, sul Piancavallo 18, in quota sullo Zoncolan 16 e mezzo, sull'Ussari 16, sulla costa Lignano 26 e 5 decimi, a Grado 24 e 5. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale. Oggi pomeriggio ancora bel tempo in pianura e sulla costa, con venti di brezza sulla costa e temperature estive. In pianura sui monti variabilità con la possibilità di rovesce, qualche temporale più probabile verso il cadore. Per domani condizioni simili. A Gorizia l'ultima giornata di Estoria, nel pomeriggio ancora 40 e 20 e con numerose città, il tema di questa edizione raccontate da ospiti di fama, tra queste Kiev e Mosca, la New York di Federico Rampini, Singapore, la Fertilia degli esuli istriani, Suez nello spettacolo di Sara Alzette, la stessa Gorizia del confine. Alcuni dei nomi degli appuntamenti del pomeriggio: Marcello Flores, Mimmo Franzinelli, Stefano Zecchi, Marco Travaglio, Mauro Mazza, Marta Verginella. A Trieste questa mattina, nell'ex caserma del battaglione San Giusto in via Rossetti, il raduno dei fanti che vi hanno svolto il servizio militare. L'area, passata sotto la gestione dell'ente di decentramento regionale, sta per diventare un campus scolastico. Le cravatte rosse del primo San Giusto salutano la caserma Rossetti, anche se è la promessa dell'assessore gli spazi resteranno a disposizione per i loro raduni, compatibilmente con i cantieri. Si appresta infatti a entrare nel vivo il grande intervento di riqualificazione che trasformerà l'ex caserma in un polo scolastico e sportivo. Il primo traguardo dista poco più di un anno. Ora si sta lavorando sulle progettazioni per i singoli lotti, ha spiegato l'assessore regionale Pier Paolo Roberti. Noi contiamo di vedere i primi studenti all'interno di questo comprensorio già con il settembre del 2026, quindi per l'anno scolastico 2026-2027. Quella sarà una scuola temporanea, nel mentre contiamo di far partire i lavori sui primi edifici. Il comprensorio occupa 12 ettari e i lavori si svilupperanno, prevedibilmente, nell'arco di 10 anni. La suddivisione prevede una parte che sarà assegnata all'ARDIS, spiega Roberta Clericuzio, direttrice dell'EDR, e lì verranno realizzate residenze studentesche, oltre alla sede dell'ARDIS. Ci sarà un'area dedicata all'istruzione di secondo grado, con le ex quattro caserme, due impianti sportivi ai lati della piazza d'armi, utilizzabili anche nell'orario extrascolastico per la cittadinanza e le associazioni, e un campus destinato allo studio e al tempo libero. Trieste, Lara Zani, TGR, Friuli Venezia Giulia. Gli spettacoli, musica, ultima giornata a Muggia per il Festival Beethoveniano organizzato dalla Società dei Concerti in collaborazione con il Comune. L'appuntamento di chiusura è il concerto al Teatro Verdi alle 20.30 con Pietro De Maria al pianoforte e il quartetto Arola. A Pordenone il gran finale del Festival del Clarinetto Portus Nonis. Numerosi gli appuntamenti durante tutta la giornata. Chiusura alle 19 in Piazza della Motta con la FRICO, ovvero la Friuli Clarinet Orchestra. Paolo Handel è ospite del Festival Palchi nei Parchi. Alle 18.30 sarà Villa Chiozza Scodovacca, protagonista di Tempi Moderni. A Sacile è in pieno svolgimento il Festival degli Sport Acrobatici. In diversi luoghi del centro storico, le esibizioni e la possibilità di provare alcune discipline. La grande festa dello sport di Extreme Days è iniziata con numeri record ieri, con le prime competizioni e grande spettacolo adrenalinico oggi e domani, con oltre 500 atleti e atlete e 24 sport per l'edizione del decennale della più grande manifestazione di sport estremi in ambiente urbano. Tobia Nicodemo è presidente Extreme Days. È un record di iscrizioni al contest e alle gare, abbiamo circa 500 atleti che competono nelle varie discipline e stimiamo un afflusso di 15.000 persone durante tutta la giornata, insomma. Siamo molto contenti e soddisfatti, anche se siamo a metà del programma, ci aspettano ancora diverse gare oggi. Domani concluderemo con, in collaborazione con il Comitato Paralimpico, una serie di attività anche inclusive, a dimostrazione del fatto che questo è un festival per tutti. In mattinata, in Piazza del Popolo a Sacile, anche 500 bambine e bambini del mini basket e i visitatori arrivati a bordo del treno storico. Lorenzo Pinciroli, speaker dell'evento. Ieri abbiamo chiuso col boulder un prima competizione che è stata la prima grande competizione. Oggi inizia quella che è una delle novità, nel senso che la slackline è sempre stata presente, ma abbiamo un contest internazionale con atleti che arrivano da quasi 10 nazioni. Oggi ci sono le selezioni, ci sono i giapponesi che sono molto forti e domani le finalissime, quindi quello da vedere e anche da provare. Sacile, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. L'arbitro di calcio friulano Luca Zufferli ha vinto il premio nazionale dedicato al miglior esordiente in Serie A. Il riconoscimento dell'AIA, l'Associazione Italiana Arbitri, è stato conferito a Zufferli in Sicilia, a Canicattì, dove si è svolta l'ottava edizione del premio nazionale intitolato al giudice Rosario Livatino, assassinato dalla mafia nel 1990. Ma sentiamo Zufferli e il presidente dell'AIA, Antonio Zappi. Una grandissima emozione, perché ho dei colleghi che hanno ricevuto questo premio negli anni precedenti e questo già fa capire che è una grande responsabilità. Secondo, i valori del giudice Livatino che ha portato nella sua vita acquisisce un'ulteriore responsabilità, perché questo premio poi lo devo tramandare alle generazioni che vengono successivamente alla mia. La figura parla da sé, per noi è un modello di riferimento. Noi che ci pregiamo di essere magistrati dello sport, io amo dire così, e per noi chi ha rappresentato dei valori, l'etica nella sua professione, è un modello di riferimento. Credo che l'attaccamento alla professione, il suo alto senso del dovere, il suo sacrificio per la missione che rappresentava, il valore della legalità, deve essere la cifra costitutiva anche della funzione arbitrale. Andrea Covre, TGR Friuli Venezia Giulia. Non ce l'ha fatta il CUS Trieste a vincere i campionati nazionali universitari di basket, medaglia d'argento ad Ancona per la squadra allenata da Dejan Faraglia, battuta in finale dal CUS Bologna per 95-82. Dopo aver dominato il girone e vinto la semifinale con Torino, il CUS Trieste nella sfida decisiva è arrivato fino al meno 6 dell'ultimo quarto contro Bologna, cedendo nel finale alla superiorità degli avversari. Il migliore del CUS Trieste è Del Ben, autore di 23 punti. È tutto per questa edizione che è stata redatta e condotta da Maria Spezia, Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Carlo Morello e Federico Comar. Ora linea alla rete, prossima edizione alle 18.30. Grazie per averci seguito ancora. Buona giornata, buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.